E con un saluto ad Alberto andiamo a cominciare Visionari di quest'oggi. Giovedì 19 luglio del 2012, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio di chi se la sente, e chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale, prendete nota, 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56, 00185 Roma. Allora, siamo all'appuntamento con Visionari come ogni giovedì dalle 14 alle 15, anche se potremo dilungarci ancora un po' oltre la barriera delle 15 quest'oggi. Per saperne di più, la scaletta la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, ci sono gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 20 luglio, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda questa settimana e poi gli altri appuntamenti della settimana, questa volta però in giro per l'Italia. E i link per leggere recensioni, ascoltare e riascoltare la puntata precedente e anche tutte le puntate del 2012. Il nostro primo ospite di quest'oggi è Gianluca Marcon, co-regista del documentario Ortobello, primo concorso di bellezza per orti. Benvenuto Gianluca a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Bene, tutto bene, a parte il caldo qua a Bologna, che è sempre asfissiante. Anche a Roma non scherza comunque. Senti, allora, cominciamo perché poi hai impegni lavorativi, cominciamo da questo titolo molto simpatico, Ortobello, primo concorso di bellezza per orti, il tema sembra già insomma delineato, dici un po' di cosa si tratta. Il documentario è una produzione dell'associazione culturale Fufin, di cui io faccio parte, qui a Bologna, e racconta di questa fantomatica gara di bellezza per orti. Il documentario si svolge all'interno la Casa del Gufo, che è un circolo di anziani, dove il comune mette a disposizione, in questo caso il quartiere Savena, mette a disposizione dei piccoli appezzamenti di terreno che vengono coltivati a orto, insomma. E questa è una pratica che esiste dal 1980 qua a Bologna, per cui esistono queste piccole isole verdi all'interno della città e sono, insomma, luoghi molto molto interessanti. Senti, si tratta di realtà condominiali, sono degli spazi condivisi da più persone? Sì, sono spazi che appunto il quartiere nello specifico mette a disposizione di solito per gli anziani che sono pensionati, ma credo che sia una notizia degli ultimi tempi che questi piccoli appezzamenti di terreno vengono messi a disposizione anche per altre persone, appunto, che non sono anziani pensionati, ma che sono, insomma, anche giovani immigrati, quindi diventa veramente un luogo di incontro poi questi piccoli spazi verdi, chiamiamoli così. Senti, a proposito di spazi verdi, è una realtà di cui si sta parlando sempre di più anche in altre città d'Italia. A Bologna è un fenomeno diffuso? Sì, come dicevo prima, è nato nel 1980 questa pratica, sì, sì, che è assolutamente una pratica positiva. Appunto, se viene dalle istituzioni, in questo caso dal comune, quindi dal quartiere, è assolutamente una cosa positiva. E noi ci siamo resi conto appunto di questa situazione, abbiamo cominciato a frequentare uno di questi posti e ci siamo resi conto veramente che sono posti, tra virgolette, un po' magici, perché veramente sono luoghi dove non solo si ha contatto con la terra, quindi c'è questo ritorno alle origini, tra virgolette, perché tutte le persone anziane comunque hanno quel passato lì, hanno tutti lavorato la terra da giovani e quello è il posto da cui arrivano. Sì, sì, sì, sì. Senti, ogni appezzamento che dimensioni ha più o meno indicativamente? Ma saranno intorno ai 30-40 metri quadri l'uno. Non sono molto molto grossi, però diciamo che ogni persona ha la possibilità di, come dire, crearsi la propria autosussistenza, sì, coltivare dall'insalata ai pomodori, insomma, le zucchine, le melanzane. Ecco. Quindi diventa da una parte, come dire, un fatto di autosussistenza, e dall'altra anche un luogo dove si può socializzare, dove certo. appunto in questo caso le persone anziane hanno la possibilità, avendo finito la propria carriera lavorativa, di rimettersi in gioco, poter avere degli amici, stare insieme alle altre persone, poi lì fanno delle cene, dei pranzi. Sì, sì, sì, sì. Allora, intanto diciamo che il tuo documentario, il vostro documentario è stato presentato a Cinema Ambiente, infatti è lì che l'ho notato il titolo e ho detto sentiamolo in trasmissione. E volevo chiederti, la coltivazione è relativa ad ortaggi e frutta? Solo ortaggi, ok. Sì, sì, sì. Non c'è, credo, lo spazio tecnico per la frutta, insomma, sarebbe molto più complicato, anche perché sarebbero sì. alberi di più grosse dimensioni, quindi certo. sarebbe strutturalmente difficile. C'è qualche pianta di lampone, di more, cose così, rampicanti, diciamo, sì. ma non alberi da frutto, insomma. Sì, sì, sì, sì. Senti, per l'inverno come funziona, visto, insomma, le condizioni climatiche a Bologna? Chiaramente sono meno frequentati, sì. e stanno dietro, come dire, alle colture invernali. Chiaramente, appunto, essendoci un clima anche qua, tra l'altro, insomma, abbastanza ostico, soprattutto nei mesi freddi, diventa anche difficile per loro avere, come dire, un'assiduità di frequenza quotidiana. Mm-hmm. Quindi vanno un po' meno, insomma, riescono a ritagliarsi degli spazi comunque per portare avanti i loro progetti. Senti, prima parlavi di un fantomatico concorso, ecco, di bellezza. Di cosa si è trattato, ed è un appuntamento annuale? No, questa è stato il pretesto narrativo del nostro film, diciamo. Bene. È una cosa che ci siamo un po' inventati noi. Sì, sì, sì. Nel sì. senso che quando noi abbiamo cominciato a frequentare questo luogo, ci siamo messi lì, abbiamo cominciato a parlare con le persone, ma anche metterci in un angolino a osservare quello che succedeva, e ci siamo resi conto che tra i mille aspetti belli e positivi che c'era anche questa, chiamiamola, competizione, che era una cosa molto velata, che soprattutto gli anziani tendono a non far vedere, però esiste questa cosa: io ho l'orto più bello del tuo, le mie zucchine sono le più grosse, per cui questa cosa ci ha un po' dato lo spunto per inventarci questo pretesto narrativo. Sì, sì, sì. E infatti è solamente un pretesto narrativo, questa gara ce la siamo inventata noi per il documentario, non è una cosa che fanno loro. Nel documentario stesso, essendo un pretesto narrativo, diventa veramente una scusa per raccontare quello che poi succede, anche perché la premiazione finale poi non esiste, anzi scorre nei titoli finali, quindi insomma non era importante la gara, ma era appunto una scusa per poter raccontare quello che succede lì dentro. Senti, visto che si tratta di spazi anche assegnati dalle istituzioni, che rapporti ci sono tra insomma i coltivatori diretti, chiamiamoli così, e i rappresentanti delle istituzioni? Ma nello specifico non li conosco molto bene, devo essere sincero, ma credo assolutamente positivi, nel senso che il quartiere poi dà la possibilità a chi gestisce direttamente, in questo caso la Casa del Gufo, dà la possibilità di gestire a 360 gradi diciamo il funzionamento di tutto. Chi si trova come singolo ad avere piccolo appezzamento di terreno ha un rapporto assolutamente cordiale, di stima e di fiducia, sia nei confronti di chi gestisce il circolo, ma anche nei confronti delle istituzioni, delle persone del quartiere, che ogni tanto comunque passano, si fanno vedere e portano avanti questo progetto insieme. Senti, per quanto riguarda il vostro documentario, immagino che insomma stia facendo un percorso festivaliero. Dove sarà possibile vederlo prossimamente? È prevista anche una programmazione televisiva, una distribuzione in sala? Ci stiamo ancora muovendo da questo punto di vista. Il prossimo festival in cui ci hanno preso è il Collecchio Film Festival, alla fine di agosto, 23, 24, 25 agosto. E il prossimo festival, adesso siamo in attesa di altre scadenze, di altri bandi che sono usciti, e probabilmente sempre con il quartiere Savena di Bologna organizzeremo a settembre una sorta di tour per tutti gli orti comunali, quindi cercare di, come dire, sollecitare l'attenzione di tutte le persone e allo stesso tempo chi è all'interno del discorso, tra virgolette, Orti, dare la possibilità appunto di far girare il documentario. Sì, sì, sì. Senti Gianluca, in chiusura, ci puoi dare anche dei riferimenti internet per avere maggiori informazioni? Sì, noi abbiamo un sito internet che tra virgolette lo stiamo costruendo, un po' in allestimento ancora, che è www.fufilm.eu, e lì si può trovare qualche informazione. Se no abbiamo anche una pagina Facebook, sempre cercando Fufilm, che è la casa di produzione, nonché l'associazione culturale. Niente, questi sono i riferimenti. Benissimo. Io ti abbraccio, allora a risentirci presto magari. Grazie mille. Ciao, ciao Gianluca, ciao. Ciao, grazie. Gianluca Marcon, co-regista del documentario Ortobello, primo concorso di bellezza per Orti. Per comunicare con noi il telefono 0649 1750, invece l'indirizzo mail al quale inviare posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda gli sms per le messaggi in diretta, il numero è il 342 35 74 357, ripeto 342 35 74 357. Andiamo avanti in collegamento con Thomas Bertacche della Tucker Film per parlare del film L'estate di Giacomo, in uscita in sala di domani 20 luglio. Thomas, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, come va? Bene, bene, siamo in ansia per l'uscita del film. Allora, ci sono delle buone previsioni meteorologiche. Sembra che sabato e domenica venga brutto. Quindi ci si può rifugiare in sala, diciamo. Esatto. Allora Thomas, un curioso ibrido questo film che mette insieme un po' di documentario con un po' di fiction e ha avuto un notevole percorso festivaliero, quasi 40 i festival in cui è stato programmato, un premio importante ricevuto a Locarno. Raccontaci un po' questa avventura. Beh, in realtà l'avventura nasce nel 2000, molto prima, perché poi noi abbiamo conosciuto Alessandro Comodin quasi per caso, perché lui è friulano ma vive a Parigi ormai 8 anni, e nel 2008 il suo lavoro conclusivo del corso di cinema che stava facendo in Belgio era stato selezionato per la Kenzen di Cannes nel 2009, e abbiamo seguito la sua prima idea, che era appunto realizzare un film su Giacomo, un ragazzo sordo che doveva operarsi, faceva l'operazione per cominciare a sentire, insomma, e lui voleva riprenderlo prima e dopo la operazione. Poi in realtà in questi 2 anni di processo in cui lui ha seguito Giacomo, il film è completamente cambiato, è diventato una specie di educazione sentimentale di Giacomo, ed è un film dove veramente la fiction, la parte di storia ha cominciato a prendere sopravvento rispetto a quello che è la parte documentaria. È un film che è piaciuto molto, è un film che esce all'estero, perché è un film che racconta veramente un pezzo di Italia, e probabilmente all'estero ancora piacciono anche la nostra parte, la nostra natura, i nostri fiumi, i nostri spazi, i nostri modi di approcciarsi al fiume ad esempio, e che adesso vediamo come funziona in Italia, vediamo se riuscirà a trovare lo stesso tipo di affetto che ha riscontrato all'estero. Non solo all'estero comunque, perché per esempio un paio di settimane fa abbiamo sentito Nanni Moretti che per la sua rassegna Bimbi Belli, e ci siamo soffermati proprio su questo titolo, che a lui insomma lo ha colpito molto, soprattutto all'inizio lo ha spiazzato questa lunga camminata di una ventina di minuti dei due nel bosco per raggiungere il fiume Tagliamento, lo ha veramente spiazzato, e poi ha detto insomma che era una cosa e comunque andava proposta ad un pubblico. Come lo racconteresti, lo descriveresti in breve a chi ci ascolta e vuole saperne di più? Beh, è proprio una questione sentimentale di adolescenti, 18-17 anni, che passano una giornata, passano un'estate tratta alle rive del fiume Tagliamento, le sagre di paese e piccole rovine in campagna. e quello che si vede secondo me molto nel film, e forse nasce anche un po' dall'esperienza personale di Alessandro, insomma lui aveva appena avuto un figlio quando ha girato il film, e quella parte centrale, quella parte così molto giocata tra Stefania e Giacomo, riesce veramente a trasmettere una gioia, no? Senza non c'è tristezza in loro, c'è tutto scoperto ed è tutto un aspetto positivo, che credo che sia la cosa che poi piacerà al pubblico molto, insomma quello che conterà di più il pubblico in qualche maniera. Sì, poi sì. Insomma è un film da vedere, no? Non c'è una trama da raccontare, insomma, certo. Non è Batman. Non ci sono effetti speciali. No. Senti Thomas, un piccolo film a dimensione familiare, in quanto Giacomo ha stretto amicizia da poco con il Giacomo era il figlio, il fratello minore del migliore amico di Alessandro Comodini, sì, regista. Sì. E quindi si conoscevano da sempre, Stefania era la sorella del regista. Non è a livello familiare la produzione, perché comunque è stata una produzione impegnativa che aveva visto coinvolto Belgio, la Francia e l'Italia stessa. E adesso abbiamo la fortuna, insomma, il fatto di scegliere di uscire in luglio ci permette di essere comunque presenti in cinema abbastanza importanti, insomma, quindi credo che il film potrà avere una buona visibilità. Insomma, Roma sarà al Barberini all'Eden da martedì, dopo l'anteprima che viene fatta all'Arena del Sacre questa domenica, e a Milano sarà all'Anteo di Milano, a Firenze al Portico, insomma in cinema piuttosto importanti, che hanno dimostrato anche di avere una particolare attenzione per il cinema di qualità. Ecco, a proposito di cinema di qualità, quali sono stati gli aspetti che vi hanno convinto a portarlo in sala, nonostante insomma le difficoltà che opere del genere, tra l'altro si tratta di un'opera prima, il primo lavoro era stato un lavoro di diploma, un piccolo documentario sulla caccia, ecco, cosa ti ha convinto, cosa vi ha convinto? Noi siamo comunque una casa istituzione che ha sede in Friuli, sì. E chiaramente vedi, abbiamo... siamo legati, no, a quello che è lo stesso in festival, e quindi la maggior parte dei film che abbiamo distribuiti provengono dall'estremo oriente, insomma, e in questo caso abbiamo visto, crediamo, un film importante di un regista importante, ma c'è anche, vuol dire, il fatto che racconta la nostra terra in qualche maniera, e di sicuro non c'è stato neanche bisogno di convincersi, è un film che abbiamo amato da subito. Sì. Senti, oltre a questa uscita in sala, quali sono i passaggi successivi che avete pensato per questo lavoro? Beh, adesso vi direi che il percorso in sala per questo tipo di film è piuttosto lungo, no? Nel sì. senso che si parla di un numero di copie non enorme, una decina di uscite, 10-12 uscite, e poi l'idea è quella di riuscire a portarlo, a raggiungere un po' la provincia e quindi farlo camminare almeno fino a fine anno in qualche maniera. Una sorta di tour, insomma. Sì, assolutamente. Poi c'è già un accordo con Zecchi Gori per fare l'edizione di Woodite, che il film ha vinto il premio al Festival dei Popoli, e poi ci sarà il solito percorso. Bisogna capire se e quando in Italia l'ultima parte dello sfruttamento di un film, cioè lo streaming, lo scaricamento da internet, quando comincerà a diventare qualcosa di anche economicamente interessante. Benissimo, allora sì? Stavi dicendo, scusami Thomas. No, dico, forse voi ne avete, non so quante volte vi è capitato di scaricare un film a pagamento su Netflix. Io non l'ho ancora mai fatto. No, sinceramente no, ho avuto modo di vederli, ma insomma in genere gratuitamente, perché quelli, i registi chiaramente non potevano inviarmi una copia per farmi conoscere il loro lavoro, chiaramente mi danno i riferimenti per scaricarlo, ma insomma non conosco da vicino questo, però insomma vedo che è uno dei sistemi che sta prendendo sempre più piede, la rete comunque a fronte di delle difficoltà distributive che incontrano i lavori, in particolare i documentari, la rete è un grosso terreno ancora presente. Sì. Per dei riferimenti, di avere maggiori dettagli, informazioni sia sul film che sulla vostra attività, ci puoi dare delle indicazioni internet? Beh, c'è sempre il nostro sito, che è appunto www.tuckerfilm.com, la pagina Facebook, che ovviamente è Tucker Film, e il sito della casa di produzione che la fa per il film, dove tra l'altro sono anche presentati alcuni progetti interessanti che probabilmente verranno realizzati entro il prossimo anno. Benissimo Thomas, allora io ti abbraccio e a risentirci alla prossima. Buona giornata, grazie. ciao. Thomas Bertacche della Tucker Film sull'estate di Giacomo, in uscita in sala di domani, venerdì 20 luglio. Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Passiamo ora ad un festival che comincerà il 23 luglio, andrà avanti fino al... vediamo un po' qui se abbiamo delle indicazioni. Mi sono perso. No, qui ho... non è vero, perché comincerà prima. Io ho segnato la proiezione del film, del documentario Murge, il fronte della guerra fredda, di Fabrizio Galatea, che abbiamo con noi in collegamento. Il festival si chiama l'Est Film Festival a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Ne abbiamo parlato nelle scorse edizioni con la direzione artistica. Intanto un saluto a Fabrizio, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Come va? Bene, bene, bene, tutto bene. Da Torino tutto bene. E le date, eccole, sono dal 21 al 30 luglio. Allora Fabrizio, ci sono un festival che insomma si sta differenziando nelle proposte. Ho visto anche che ci sono in programma 4-5 documentari. Uno è il tuo, altri li abbiamo ad esempio già ospitati sulle nostre frequenze, nella nostra trasmissione. Allora raccontaci un po' intanto il tema di questo Murge. Ma dunque, il tema racconta una storia curiosa, ovvero negli anni 60 gli americani installarono delle basi nucleari tra Puglia e Basilicata, nelle Murge, appunto questa regione all'epoca molto molto povera, molto arretrata, ed erano dei missili a lunga gittata che potevano arrivare fino a Mosca e Leningrado, appunto dotati di testate nucleari molto molto potenti, e che in buona sostanza furono una delle cause, se non la causa principale, della crisi di Cuba, perché i russi andarono a mettere le postazioni a Cuba, quella famosa crisi di ottobre del 62, proprio per rispondere a questa presenza, a questa minaccia che arrivava dall'Italia e dalla Puglia. Quindi la crisi dei missili a Cuba ha una sua origine nelle Murge, praticamente. Esattamente, è strano, perché poi uno degli aspetti più divertenti è che ovviamente la popolazione locale all'epoca era del tutto all'oscuro del fatto che questi missili custodissero delle armi, degli ordigni così potenti e pericolosi, ovviamente. Certo. E ancora adesso però la storia è per lo più sconosciuta a tutti gli italiani, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, che ne è stato di quelle basi e di quegli ordigni nucleari? Le basi giustamente furono smantellate nel 63, grazie appunto degli accordi segreti tra USA e URSS, che prevedevano il ritorno delle basi, delle navi sovietiche in Russia, partendo da Cuba, e il fatto che dall'Italia venissero portati via questi ordigni, e presumibilmente sono tornati negli Stati Uniti. Ecco, comunque dal 63 le basi in Italia furono smantellate. E che utilizzo ne è stato fatto adesso? Come sono state riconvertite o sono sempre zona militare, off limits? Ma dunque c'è una questione mista, nel senso che le basi sono formalmente ancora proprietà dell'Aeronautica, quindi del Ministero, però sono per lo più abbandonate, alcune sono conservate ancora abbastanza bene, insomma, però sono per lo più abbandonate, in altre addirittura ci sono dei campi di grano in mezzo alle garitte e alle strutture che servivano per il lancio di questi missili, quindi diciamo che hanno avuto una fine un po' surreale, ecco. Sì. D'altronde l'origine era stata surreale, per cui sì. anche la fine è il degno finale. Fabrizio, in che maniera avete svolto la vostra ricerca? Ma dunque, noi siamo partiti ovviamente con un approccio storico, avvalendoci di Leopoldo Nuti, che è professore alla Sapienza a Roma, che è il massimo esperto italiano di guerra fredda, perché c'era tutta una serie di contatti, soprattutto legati a militari italiani che parteciparono a quell'avventura, perché la maggior parte delle forze ovviamente erano dell'aeronautica militare italiana. E poi altri testimoni fondamentali sono i braccianti e i contadini che all'epoca abitavano le Murge. Sì. Quindi il contrasto divertente è proprio quello, vuol dire la cultura contadina, anche profonda, anche ricca di quelle terre, con la tecnologia all'epoca più avanzata che l'uomo potesse immaginare. Sì. Perché la tecnologia era la stessa, per intenderci, dei missili, dei razzi che poi porteranno l'uomo sulla Luna, ecco. Quindi siamo davvero all'apice della tecnologia. Fabrizio, quanti militari italiani ha coinvolto questo progetto? Dunque, nel film le interviste, il contributo dei militari sono due, che sono un colonnello, adesso colonnello, allora era giovane tenente, e un tenente che poi ha lasciato l'aeronautica, e sono in qualche modo un po' appunto la testimonianza anche del polso di quei tempi, perché i militari italiani tra l'altro andarono tutti a fare un corso negli Stati Uniti ovviamente per apprendere le tecniche militari, e quindi vissero anche quel sogno, immaginate andare negli anni 60 a fare un corso negli Stati Uniti per un giovane italiano, erano 20-22 anni, doveva essere qualcosa di straordinario. Sì. E quanti militari furono impiegati in quelle basi? Nelle basi, sì. Sì. Ma dunque, calcoliamo che ogni base, diciamo, rotazione aveva circa una decina di militari, le basi erano 10, quindi diciamo 100-120 militari italiani erano dell'aeronautica, erano, per quanto riguarda l'aspetto operativo. Poi ovviamente c'erano anche i sistemi di controllo, però non erano deputati all'aeronautica, quindi, perché chiaramente queste basi andavano anche in qualche modo controllate, visto quello che custodivano. Certo. Senti, l'aspetto che mi incuriosisce così a pelle sentendoti parlare è quello dei contadini, ecco, che cosa è emerso dalle interviste con loro? Ma diciamo che intanto è emerso una tradizione culturale straordinaria e profonda, nonostante l'ignoranza, perché ovviamente parliamo di persone che non hanno avuto la possibilità di scolarizzarsi, ma in ogni caso la cultura contadina emerge in maniera prepotente, e anche l'orgoglio di un'appartenenza a una terra che è comunque una terra difficile, perché le Murge è un territorio, come dire, in cui non è semplice coltivare, non è semplice vivere, e quindi c'è questa grande dignità che in qualche modo però appunto contrasta con questa sorta di inganno che hanno vissuto per anni, rischiando appunto di venire annientati da un disastro atomico, perché va detto che ovviamente le basi militari italiane erano obiettivo sensibile di quelle sovietiche, quindi certo, laddove fosse scoppiata una guerra nucleare la Puglia sarebbe andata in fumo, ecco. Mm-hmm. E con loro questi contadini, che tra l'altro hanno uno aspetto straordinario, cioè una sorta di verginità di fronte al mezzo video, al mezzo cinematografico, per cui, come dire, parlano come se la camera non ci fosse. Questo per me, per il mio lavoro, è qualcosa di straordinario, di unico, che va perdendosi, perché ovviamente le giovani generazioni sono nate con abitudine all'audiovisivo. Ecco, parlavi di una terra difficile, che realtà sta vivendo oggi un territorio come quello delle Murge? Ma ovviamente allo stato attuale è profondamente cambiata, perché negli anni 60 davvero c'era una condizione miserrima di vita per la maggior parte della popolazione. Invece adesso le moderne tecniche di coltivazione e anche uno sviluppo economico diffuso ha creato una maggiore ricchezza. Rimane un territorio, uno dei classici territori italiani un po' nascosti, per cui è molto bello, e quindi invito chi volesse recarsi in quella zona a visitarlo, perché davvero ha un paesaggio molto molto suggestivo e paesi molto interessanti da visitare, come Irsina, come Gravina, come Altamura, Spinazzola e tanti altri. Però appunto è un territorio nascosto che non fa mostra di sé, è un sud atipico, ecco. Tra l'altro, a proposito, il tuo cognome sembra tradire un po' delle origini della Gricia Salentina. Ma in realtà in effetti Galatea non è certo un cognome piemontese, l'etimo sembrerebbe arrivare dalla Sicilia, dove c'è anche quella la nota discendere la ninfa Galatea, insomma, e così via. Quindi evidentemente sì, le origini anche nostre vengono dalla Magna Grecia, ecco, dal sud, dal Mediterraneo. Sì. Allora Fabrizio, ci dai ricordiamo intanto la data della proiezione, il 23 luglio alla sesta edizione dell'Est Film Festival a Montefiascone, in provincia di Viterbo. E sì, poi in realtà la data di proiezione è il 30 luglio. Ah, il 30 luglio. Il 30 luglio, sì, il 30 luglio. Perché allora ho sbagliato nel riportare la data. E 30 luglio, e su internet dove si possono avere maggiori dettagli? Ma dunque, su internet, ovviamente, oltre al andare sul sito dell'Est Film Festival, potete anche andare sul sito della casa di produzione La Zenith, che ha prodotto il film, ed è www.zenith.to.it. Benissimo, Fabrizio. E lì trovate tutte le informazioni sul film. Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci. Allora, va presto e buona giornata a tutti, grazie infinite, arrivederci. Ciao Fabrizio, ciao. Fabrizio Galatea, regista del documentario Murge, il fronte della guerra fredda. E mi ha corretto perché la data di proiezione all'Est Film Festival di Montefiascone sarà il 30 luglio. Vi ricordo i nostri collegamenti, l'indirizzo mail visionari@ondarossa.info. Per gli sms in diretta il numero è 342 3574 357. Siamo in collegamento con Maurizio Bongiovanni, regista del documentario La rivoluzione della cintura. Benvenuto Maurizio. Grazie, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. Allora, raccontiamo di un altro documentario, di quelli presentati a Cinema Ambiente, che quest'anno ci ha fornito veramente tanto materiale. Allora, qual è la rivoluzione e qual è la cintura? A questo punto ti chiedo. Sì, beh, parto dalla cintura. La cintura è quella di Torino, perché il mio lavoro è concentrato su questa città. E, la rivoluzione invece è un po' quella della periferia che si è creata negli anni, dagli anni 60 a oggi, intorno a Torino, e che oggi con i problemi effettivi di consumo di suolo cercano da una parte di riappropriarsi della propria identità, perché sappiamo che la periferia esterna alla città, con la città in continua espansione, ecco, questa città in continua espansione va un po' a rubare i confini e quindi l'identità dei paesi, quindi la rivoluzione un po' in questo senso, un po' di riappropriarsi dei propri spazi, dei propri paesaggi, quindi un po' della propria identità, ecco. Questo per quanto riguarda tutto l'interland della metropoli. Beh, sì, io in realtà sono partito da un caso specifico, posso raccontarlo? Come no, certo. Sì, il caso specifico è quello di Mappano, che è un paese che è diviso su quattro comuni diversi. Il mio documentario si rivolge al tema del piano regolatore, cioè come questo strumento, che dovrebbe essere uno strumento condiviso e messo al servizio dei cittadini, in realtà in Italia in tutti questi anni è diventato da una parte uno strumento quasi inaccessibile, perché un po' trattato come con un linguaggio troppo tecnico e quindi inaccessibile per i cittadini, e dall'altra usato per scopi non sempre collettivi, proprio perché c'è la mancanza dell'idea di paesaggio come bene comune. Sì. Ebbene, quindi il documentario vuole un po' andare a raccontare sull'importanza invece di avere dei piani regolatori condivisi con un'ottica collettiva. Quello di Mappano è proprio un caso estremo di questa mancanza di collettività, perché è un paese nato dalla periferia di quattro comuni, a loro volta periferia di Torino, perché poi succede questo, cioè che ogni paesino della cintura di una grande città ha una sua zona industriale. Mappano è nato dalle quattro zone industriali di questi quattro paesi diversi. Con la mancanza di piano regolatore, questo è un paese che si è negli anni popolato fino a raggiungere una popolazione di 8.000 abitanti, quindi non è proprio un paesino così piccolo, però ovviamente si può ben capire che 8.000 abitanti che non hanno un piano regolatore sono difficili da gestire. Ci sono casi di, ma anche solo banali, di vie che hanno lo stesso nome perché sono sotto due comuni diversi, vie che non hanno i numeri civici o che iniziano in un comune e finiscono in un altro, poi collegandosi a tutti invece i problemi anagrafici, eccetera. Quindi sono partito un po' da questo esempio estremo della mancanza di pianificazione territoriale, questo è il punto di partenza. Perché uno, pensando a un piccolo comune, storicamente si è sviluppato da un nucleo, qui invece per un'espansione industriale praticamente che ha creato una concentrazione di popolazione, ma senza insomma dei punti di riferimento. Esatto, in esatto. Sostanza. E quindi un po' in questo senso la periferia, no, che vuole ridiventare centro, perché in questo caso è proprio un Mappano, è nata da una periferia, però adesso è dal 1985 che cerca di tornare comune, quindi c'è un po' questo desiderio della periferia di ritornare centro, diciamo, un po' questa la rivoluzione forse. Ecco, prima parlavi del consumo del suolo, che è un problema che per esempio ha affrontato anche un altro documentario di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, che riguarda invece la pianura padana, che è una delle zone più fertili d'Italia e si sta riempendo di capannoni industriali. Ecco, in questo senso la rivoluzione come sta avvenendo? Quali pratiche stanno mettendo in campo i cittadini? Beh sì, più che i cittadini, che secondo me hanno ancora bisogno di essere, di partecipare, sì, alla stesura di un piano regolatore, questo un po' manca in Italia, questa idea di, sì, far partecipare, sì, sì, i cittadini. Ci sono dei comuni che hanno fatto delle assemblee per allargare un po' il discorso, ma anche dall'altra parte il cittadino è ancora poco interessato alla questione. Diciamo che io nel documentario ho citato un caso che per ora è ancora abbastanza unico in Italia, ed è quello della provincia di Torino, che ha scritto su carta un piano di coordinamento, un piano territoriale di coordinamento, sì, chiamato, sì, PTC, esatto, che vuole avere un po' un obiettivo sovracomunale, cioè di far dialogare i comuni. Sembra una banalità, però tante volte, come dicevo prima, ogni comune ha la sua zona industriale, ci sono zone dove appunto ci sono capannoni vuoti e il comune vicino costruisce nuovi capannoni per insediare nuove attività economiche. Ecco, questo manca proprio un punto di vista sovracomunale. Il piano territoriale della provincia di Torino vuole sopperire proprio a questa mancanza, cioè prima di costruire nuovi insediamenti, ecco, mettiamoci tutti intorno a un tavolo, i diversi rappresentanti dei comuni, e mettiamoci d'accordo. In questo modo potremmo salvare dei suoli liberi. Infatti, certo, l'obiettivo proprio di questo piano territoriale è quello di lasciare spazio ai suoli liberi e di andare a recuperare invece le zone edificate, magari riconvertirle per nuove attività industriali. Questo, a mio avviso, è un ottimo punto di partenza, ancora secondo me da sviluppare, proprio come dicevo prima, perché manca sicuramente la partecipazione dei cittadini, il condividere il messaggio che il paesaggio è un bene di tutti, forse comunque magari è una cosa che arriverà poi, si spera il prima possibile, perché ogni giorno che passa si consuma sempre più suolo, quindi bisogna muoversi in fretta. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti, sta trovando delle forme di attuazione o comunque può essere anche di esempio in altri territori questo che tu citi? Sì, io so che la provincia di Torino porta in giro questo suo PTC proprio per presentarlo ad altre province che si sono interessate al tema. Sicuramente c'è bisogno di di velocizzare i tempi, sì. Anche perché all'interno dello stesso PTC comunque i comuni incominciano solo adesso a mettersi d'accordo sui piani regolatori, alcuni sono ancora tagliati fuori dalla comunicazione, ma non magari per volere della provincia, ma magari proprio per il volere del comune che non è interessato. Tanti comuni sono ancora legati alla questione: devo far cassa con il mio territorio, mi servono gli oneri di urbanizzazione per usarli nelle spese vive del mio comune, quindi questo è ancora un muro molto alto da superare, da abbattere, anzi, che tanti comuni non riescono ancora a slegarsi da questa, da quest'ottica. E quindi sicuramente ci vuole più incisività da parte dalla provincia, benché, ripeto, è già buono che ci sia questo piano, è già un ottimo esempio, sicuramente c'è bisogno di un coordinamento a livello regionale, poi a livello nazionale, perché appunto i tempi sono stretti, sì, e sì, sì, sappiamo, sì, che in Italia queste cose, tra i tempi burocratici e i tempi di altra natura, appunto, vanno per le lunghe. Ecco. Sì, e di contro, insomma, il discorso interessa alle aree urbane che invece conoscono uno sviluppo molto molto accentuato nel tempo, insomma, le periferie sono sempre più estese e consumano sempre più terreno. Ecco, volevo chiederti anche, Maurizio, a proposito di questo piano regolatore, si parla di diminuzione della cementificazione, del riutilizzo degli spazi abbandonati. Interessa anche gli spazi verdi, gli spazi di coltivazione e forme di energia alternativa? Ecco, questa è anche un'altra grande fetta che ancora manca in questi strumenti di governo del territorio, perché poi ovviamente sono discorsi connessi, collegati, che un arresto della cementificazione del suolo deve essere per forza subito collegato ad altri discorsi che vanno da un miglioramento dei trasporti, prima cosa che viene in mente, perché come dicevi tu le periferie consumano nuovo suolo, ma poi il problema è che queste periferie nascono e non sono collegate con le metropoli a cui fanno riferimento, quindi rimangono isolate, perciò si creano sempre nuove strade, nuovo asfalto che viene buttato su terreni liberi per poter far circolare nuove macchine, con ovviamente tutti i problemi connessi dall'inquinamento, eccetera. Quindi sicuramente la prima cosa che andrebbe ancora potenziata, e collegandosi a questo strumento di un piano regolatore condiviso e copianificato tra i comuni, è quello dei trasporti. E poi sicuramente c'è ancora da lavorare molto su tutto il resto, quindi sulla questione energetica. So che sul verde ci sono dei piani di recupero, si vogliono creare dei corridoi verdi, cioè delle autostrade, così brutto come nome da dare a questo tipo di elementi, però così vengono definite, cioè delle autostrade verdi, cioè del verde che colleghi le città. Questi sono effettivamente discorsi che si stanno facendo e che si incominciano poi anche ad attuare nella realtà, ma come ripeto, secondo me la prima cosa che bisogna migliorare e potenziare è un sistema dei trasporti. Invece si sta andando invece poi nella direzione opposta, ma questo è un altro discorso. Noi in Piemonte viviamo il taglio dei treni locali, che è un altro grande argomento. Ecco, quindi c'è sicuramente, se da una parte nasce un esempio virtuoso, poi anche il resto si deve livellare, altrimenti è destinato a morire come esempio virtuoso e a cadere poi nel dimenticatoio. Maurizio, in chiusura, puoi darci dei riferimenti per avere maggiori dettagli sul tuo documentario? Beh, il mio documentario deve, appunto, vedrà la luce, la prima apparizione a questo festival del cortometraggio a Monpeo questo fine settimana, e su internet dopodiché con Cinema Ambiente, con la provincia di Torino, si creerà un po' una rete di distribuzione che in questo momento ancora non c'è, ma presto sarà dedicata anche una zona sul sito, quindi sicuramente. Quindi c'è già un sito dedicato? Non ancora, questa è ancora in fase di realizzazione, presto verrà. Allora dacci poi prossimamente maggiori informazioni, nel frattempo un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie mille, grazie anche per lo spazio che avete dedicato a questo lavoro. Bene Maurizio, a risentirci presto. Grazie, ciao. Arrivederci a tutti, grazie. Maurizio Bongiovanni, regista del documentario La rivoluzione della cintura. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Vi ricordo i riferimenti per entrare in contatto con noi: l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta il numero è 342 3574 357. Paolo Pisanelli, regista Paolo Pisanelli, direttore della festa Cinema del Reale, Festival del Cinema Documentario, in quel di Specchia, in provincia di Lecce, dal 25 al 28 luglio. Paolo, ben ritrovato. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua nel sud del sud, come diceva Carmelo Bene, fa caldo ma non troppo, perché c'è un vento fresco, quindi tutti quelli che vogliono partire da Roma e venire giù da noi nel Salento sono tutti invitati, insomma. A che edizione, siamo arrivati, Paolo? È la nona, l'anno prossimo facciamo i fuochi d'artificio, saranno 10 anni. Per resistere 10 anni a fare eventi culturali, penso che ormai sia una vera impresa in Italia. Certo. Senti, allora, un festival del cinema documentario, cosa offrirà quest'anno? Allora, diciamo che intanto è crisi, amori, follia. Queste sono le tre parole su cui abbiamo lavorato, i temi di molti film, perché il cinema del reale non è semplicemente una rassegna di cinema, è una festa di sguardi, quindi non solo di cinema del reale, ma anche di fotografia, ci sono mostre fotografiche, mostre d'arte, installazioni video, quindi insomma è una festa di incontri, di sguardi e di incontri, insomma, che si corona sempre con una grande festa che dura dall'una, dalla mezzanotte e mezza, quando finiscono le proiezioni del sabato, fino all'alba sul terrazzo del Castello Risolo di Specchia, che è questa cittadina bellissima. Senti, uno Paolo... dei mille borghi più belli d'Italia, insomma, o dei cento. Senti Paolo, visto che noi ci occupiamo in particolare di documentario e quindi con questa tua proposta andiamo a nozze, quali e quante proposte relative al documentario ci sono? Guarda, intanto c'è l'ospite d'onore, sarà Alexander J. Saylor, che è un grandissimo autore svizzero, forse non molto conosciuto in Italia, ma ha fatto dei film bellissimi come Siamo Italiani, che noi presentiamo, l'integrazione o la non integrazione degli italiani in Svizzera. È girato nel 1964 e questo film è di Alexander Saylor, Rob Nant e June Kovacs, è veramente bellissimo. E poi Vento di Settembre, sempre di Saylor, che segue le vicende di alcuni dei protagonisti del film del 64, che erano di origine di Acquarica del Capo, che è vicino Specchia, quindi nel Salento. Quindi lui nel 2002 ritorna 40 anni dopo e racconta questi emigranti di ritorno. Ma oltre a Saylor abbiamo tra gli autori abbiamo Daniele Ricari e Stefano Savona, con cui tra l'altro io, loro e Antonio Medici faremo anche un seminario aperto filmare eventi collettivi. Questo avverrà sabato sabato 28 luglio. Bene. Questo insomma ci piace perché ogni anno sempre a Cinema Reale abbiamo sempre fatto questi incontri della mattina, che sono incontri con gli autori. Noi non facciamo dibattiti, le serate sono belle intense ma senza interventi del pubblico. Invece gli interventi del pubblico, degli appassionati, degli addetti ai lavori ci sono nelle mattine con cui si possono incontrare tutti gli autori. E gli autori appunto saranno, oltre a Sailer, Daniele Vicari, Stefano Savona, Sailer con Valentina Pedicini, Mariangela Barbanente, Pippo Cariglia e Cristian Sabatelli, insomma le sorelle Chiarello, Sofì e Annalise, faranno un altro incontro la mattina che è Crisi, Amori, Follie, raccontare storie di migranti. Questo è un altro incontro a cui ci tenevamo molto, perché i film che presentiamo quest'anno, c'è spesso questo, diciamo, tra le crisi c'è la crisi di identità, le crisi economiche, quindi crisi di persone che hanno dovuto lasciare la loro terra per andare altrove. Mm-hmm. E quindi avremo Ferrotel di Mariangela Barbanente, tra i film, Ritals, le sorelle Chiarello, L'altra città di Cristian Sabatelli e Pippo Cariglia. Quindi insomma abbiamo una scelta molto interessante. L'altro tema importante è raccontare il territorio. Questo è un incontro che avverrà invece venerdì 27 luglio con Franco Arminio, Benoit Felici, che ha fatto Unfinished Italy, Cecilia Mangini, Alessia Rollo della fotografa, Maira Mazzoni che invece è una scrittrice, Valentina Pedicini che ha fatto Mai Marlboro City, un bellissimo documentario su Brindisi, poi ci sono io, poi c'è Chiara Giunta Scrimieri, insomma ci stanno molti autori, penso che siano autori non solo di cinema ma anche di fotografia, di scrittura, Giuseppe Cristaldi anche, quindi sarà un bel incontro. Franco Arminio, poi il paesologo che è anche fotografo e autore di film che presenteremo in questi giorni, sicuramente diciamo darà un tocco anche di poesia a questi incontri, perché lui da paesologo ha esplorato molto i paesi degli Alpini e del sud Italia, ma insomma dell'Italia in generale. Un evento speciale, aspetta, ti dico questo, poi mi chiedi quello che vuoi, formato ridotto. Bene. Da sempre, praticamente dal 2005 che collaboriamo sempre con On Movies, c'è questo bellissimo film che è un film collettivo, no? Messo in piedi dalla banda di Paolo Simoni, Carian, Mirko, la banda di On Movies, hanno invitato Enrico Brizzi, Ermanno Cavazzoni, Emilio Clementi, Ugo Corni e Vuming 2, cioè degli scrittori, a scrivere dei testi originali per diciamo i fondi d'archivio che loro hanno, che vengono da archivi di cineasti o cineamatori o amatori semplicemente che hanno filmato l'Italia negli anni 50, 60, 70, e quindi è venuto fuori questo formato ridotto, questo film che racconta un po' l'Emilia Romagna. È molto, molto bello, anche perché questo è un periodo che l'Emilia sicuramente deve essere sostenuta, deve essere raccontata, visto quello che è successo. Certo. Poi col terremoto. Certo. Paolo, tra l'altro diversi degli autori che hai citato sono stati chiaramente nostri ospiti a Visionari e mi fa piacere ritrovarli lì da te. Volevo chiederti, visto che comunque a questo punto ci farebbe piacere anche continuare a seguire la festa del cinema del Reale, magari per la prossima settimana impegna Gabriele a inviarci i contatti di diversi degli autori. Vi mandiamo i contatti degli autori, anche perché avremo Angelo Covozos che è autore di un film, Encardia è la pietra che danza, è un film che racconta proprio dei ponti culturali tra Grecia e Grecia Salentina. Questo non l'avevo detto, è un film molto bello. Poi c'è un omaggio a Riccardo Napolitano con due bellissimi cortometraggi che verranno presentati da Carla Simoncelli. Insomma, ci sono veramente tantissime cose, e per i cinenottambuli del rock When You're Strange nella versione originale con la voce di Johnny Depp, il film su Jim Morrison e Sidors. Benissimo. Allora, ricordiamo la festa Cinema del Reale, Festival del Cinema Documentario a Specchia, in provincia di Lecce, dal 25 al 28 luglio. Dacci a questo punto in finale i riferimenti internet dove va a avere maggiori dettagli sul programma. Beh, andate su www.cinemadelreale.it, ci stanno anche una serie di spot che vi invitano a venire di visioni, e naturalmente ci sarà Cecilia Mangini, che è la nostra colonna, è la colonna di Cinema del Reale. Presentiamo un Ring Sardegna, che è un estratto da Domani Vincerò, che è bellissimo, sulla box è usata per... diciamo per poter elevarsi da pastori a cercare di diventare qualcosa di più. È un film del 69, è molto bello. Bene. Paolo, io ti abbraccio. Grazie. A risentirci presto. Saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, e dato che so che sono amanti del Salento, li invitiamo a venire. Benissimo. Ti abbraccio, a presto. Ciao, ciao, ciao Paolo. Paolo Pisanelli, direttore della festa Cinema del Reale, come dicevo prima, Festival del Cinema Documentario a Specchia dal 25 al 28 luglio. È con noi in diretta Marta Capello, presidente dell'Associazione Giovani Produttori Cinematografici. Intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Marta. Grazie, grazie a voi di avermi invitato e buonasera a tutti. Allora, io non conosco la vostra associazione, però mi era arrivata una mail dei vostri incontri a Montecatini, in cui portavate avanti delle proposte sia relative alla produzione che alla distribuzione, e visto che insomma noi ci occupiamo di, in particolare, documentari, ma insomma del cinema, conosciamo bene le difficoltà produttive e ancor più quelle distributive, mi interessa anche sapere molto del vostro delle vostre proposte, visto che siete giovani produttori indipendenti. Che idee avete elaborato, Marta? Allora, innanzitutto, tra i nostri produttori esistono anche produttori di documentari. Bene. Quindi in realtà facciamo sia film per la sala di fiction, che in realtà anche documentari per la televisione. Ma Montecatini è stato un po' un banco di prova per confrontarci e capire un attimo quali erano le ambizioni e cosa ci si aspetta un po' da questa Italia, no, a livello produttivo. Sì. E ne sono uscite fuori diverse proposte. Secondo me la più importante è quella in cui si definisce che sicuramente l'impresa emergente ha necessità di essere sostenuta non solo da un punto di vista, diciamo, di contenuti, e quindi facilitare la produzione di opere sperimentali con linguaggi nuovi, ma anche sostenuta da un punto di vista finanziario. Quindi sicuramente, non so se quanti di voi conoscano le nuove normative sul tax credit, che è un sostegno automatico, sicuramente distinguere l'impresa emergente da un'impresa che invece ha uno storico più ampio, e quindi l'impresa emergente meriterebbe, se non altro, un sostegno in più, e quindi un innalzamento della quota di tax credit, che è quella quota di defiscalizzazione che permette ai produttori in automatico diciamo di curtare dalle tasse una quota, una parte della somma investita per fare cinema. Sì. Relativamente al tax credit, ci sono poi altre proposte relative proprio alla produzione in senso stretto? Ma sì, sicuramente l'associazione si pone anche come diciamo cantiere, no? Per pensare insieme nuove modalità produttive. La cosa che è venuta fuori è che siamo tantissimi giovani produttori, tantissimi imprenditori che vogliono fare questo lavoro, ma allo stesso tempo abbiamo società di piccola dimensione, e quindi una nuova modalità produttiva veramente innovativa in Italia potrebbe essere quella di unire le forze e riuscire a fare in team di produttori di 2 o 3 società di produzione quello stesso film che magari una società singolarmente metterebbe tantissimi anni, purtroppo, qui in Italia a produrre. Allora, dall'unione delle forze si può fare in modo che una produzione abbia luce molto prima e anche con budget molto più alti. Allora, la prima difficoltà è quella produttiva, anche se conosciamo, insomma, parliamo anche di sempre più realtà che riescono a realizzare film e documentari, nello specifico, quasi a costo zero. Il problema, esatto. Lo scoglio però grave, decisivo, è quello della distribuzione. Allora volevo sapere da voi le vostre idee rispetto sia alla sala cinematografica che a quel terreno di sperimentazione, minato, direi, della distribuzione. Sì, che è il che comincia a essere, che è anche da tempo la rete, l'internet come sì, possibilità di visibilità. Allora, da un punto di vista, diciamo, della distribuzione più classica, noi partiamo da proposte di creare una sorta di agevolazione fiscale anche per tutti quegli imprenditori, distributori e gli esercenti che puntano sul prodotto difficile, sul film difficile e sull'emergente. Quindi una sorta di sostegno per chi crede che il cinema italiano ha un futuro e debba avere la giusta visibilità. Da un punto di vista invece, diciamo, più innovativo di distribuzione, quindi web, noi ci crediamo moltissimo, la stiamo studiando, la stiamo analizzando. Sicuramente internet è una piattaforma che va strutturata in un modo o nell'altro, cioè bisogna far sì che ci sia un'offerta intelligente, low budget, e allo stesso tempo permetta agli utenti di stare nella legalità e di poter vedere film in altissima qualità senza essere costretto al download non autorizzato. Senti, per avere maggiori informazioni sulle vostre idee, le vostre proposte, ci puoi dare qualche riferimento internet? Beh, sicuramente non può mancare il nostro sito internet, che è www.agpc, che sarebbe Associazione Giovani Produttori Cinematografici.eu. Benissimo. Allora Marta, a risentirci una prossima volta, se ci saranno, grazie, chiaramente sviluppi nelle vostre proposte. Benissimo. Allora a presto. Buonasera, ciao a Marta. Tutti, a presto. Marta Capello, presidente dell'Associazione Giovani Produttori Cinematografici, relativamente alle proposte su produzione e distribuzione. Andrea Boretti, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, ciao a tutti. Questa volta sempre per parlare di un documentario, però il titolo questa volta è 40 passi, la verde Brianza e la città infinita. Allora, tra l'altro capita un po' a fagiolo, perché abbiamo prima parlato con Maurizio Bongiovanni, che ci ha parlato della rivoluzione della cintura, il suo documentario sull'area torinese, sul problema del consumo di suolo, e alla mente mi era tornato anche un altro lavoro di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, sul relativo invece all'Emilia Romagna, sul consumo di suolo, sui tanti capannoni industriali che rubano terreno coltivabile. Ecco, la Brianza, che realtà hai cercato di mostrare? Il mio documentario parla appunto ancora del consumo di suolo. Il documentario a cui facevi riferimento prima in Emilia credo che sia il capostipite un po' di tutto questo filone di documentari. E per fortuna in questi ultimi due anni, vedo io, si stanno moltiplicando questo tipo di lavori. In Brianza non potevamo appunto che riparlare di questo, perché la Brianza è la seconda provincia italiana più cementificata, di fatto, dopo quella di Napoli. Sì. E nel documentario quello che abbiamo voluto fare è stato appunto voler raccontare che cos'è il consumo di suolo e che cos'è il consumo di suolo in Brianza, quindi le conseguenze sulla gestione delle acque, il traffico, le conseguenze banalmente sulla qualità dell'aria e la qualità della vita in generale. Sì, e sì. Perché si è arrivati ovviamente a questo livello assolutamente insostenibile di consumo di suolo. Sì, sì, sì. Credo alla base di tutto ci sia il boom economico, quindi i decenni 50 e 60, l'industrializzazione, e poi cos'è successo su quel terreno, Andrea? Su quel terreno è successo che si è perso il controllo, è successo che di fatto si è continuato a costruire allo stesso ritmo, in tutto questo meccanismo si è infilata la finanza e la speculazione, quello che, cioè, banalmente la crisi che viviamo oggi parte nel 2008 in America con un boom immobiliare, no? Con lo scoppio di una bolla immobiliare. Esatto. Gli affitti, le cose, eccetera. Da noi non succede, non è molto diverso, siamo strutturati in maniera un pochino differente, ma parliamo grosso modo delle stesse cose. Cemento permette alcune speculazioni che e dei guadagni tali che non sono paragonabili quasi a nessun altro settore. Poi è successo che verso la fine degli anni 90, primi anni 2000, è cambiata una legge che è quella sugli oneri di urbanizzazione, che di fatto hanno fatto sì che ogni sindaco, ogni amministratore locale percepisse il territorio del proprio comune come un assegno in bianco dal quale attingere nel momento in cui ci fosse necessario, e in questi anni sappiamo che i comuni non ce la fanno più e l'unica cosa che hanno come entrata diretta è di fatto svendere il proprio territorio per avere un po' di liquidità, insomma. Sì, sì, sì, sì. Andrea, quali sono i 40 passi cui fa riferimento il titolo? E poi volevo chiederti anche se ci sono esempi virtuosi in controtendenza. Allora, i 40 passi sono i 40 passi che dividono virtualmente, ovviamente, sono un'immagine simbolica, il comune di Seregno dal comune di Meda. L'inizio del documentario è proprio questo, vediamo Arturo Lanzani, che è un esperto appunto di urbanistica e insegnante del Politecnico di Milano, che percorre questi 40 passi tra il cartello, diciamo, di inizio del comune di Seregno e quello del comune di Meda. Ovviamente geograficamente i due comuni si toccano, ma in mezzo storicamente ci sono sempre stati dei campi, aree coltivate, aree agricole. Queste aree agricole sono scomparse, rimangono questi 40 passi che sono praticamente nulla, è la città infinita, certo, no? Certo. Un paese si sossegue all'alto senza soluzione di continuità. Esempi virtuosi, sì. Allora, qualche esempio c'è, c'è l'esempio quello di Castinetta, vicino alla Via Pedrata, sempre paradossalmente vicino a Milano, e lì di fatto hanno deciso di non consumare più suolo, quindi non si costruisce più nulla, e nonostante questo il comune è un comune ricco di fatto, perché ha trovato altri modi di creare delle entrate, di fatto generato con questa, preservando tutto il territorio, valorizzandolo, è riuscito a creare addirittura del turismo che arriva dall'estero per godere di questa situazione. Quindi è un modello che può essere di riferimento, quindi. Questo può essere un modello, ma io credo che in realtà ogni realtà deve trovare il proprio modo specifico, certo, di esistere, no? E di andare avanti. Non tutti, cioè Castinetta è un bellissimo comune con edifici storici, vengono dalla Russia per dirti, per sposarsi in questo posto. Sì, sì, sì. Non credo che tutti i posti possano arrivare a questo, certo, cioè possono fare questa cosa qui. Ogni realtà sfrutterà le proprie peculiarità, insomma. Sì. La prima cosa che mi viene in mente, per esempio, sono i piccoli centri con i piccoli nuclei, i piccoli paesi con un centro storico di valore. Insomma, già quello potrebbe essere un piccolo stimolo al turismo che può ovviare le altre difficoltà di entrata di un paese. Assolutamente, assolutamente sì. Senti, rispetto al un'altra delle questioni che mi veniva in mente prima parlando con Maurizio Bongiovanni, le fonti energetiche alternative, gli spazi verdi, il terreno agricolo coltivabile, ecco, questi elementi vengono salvaguardati in qualche modo, vengono offerti dei modelli alternativi? Allora, nel documentario, per prendere uno degli argomenti che hai citato te, raccontiamo la storia di un, tra le altre, raccontiamo la storia di un di una realtà che sta appunto in Brianza, che ha ricostituito una filiera tradizionale del pane. Sì. Cosa vuol dire? Hanno di fatto loro hanno sono una sorta di gruppo di acquisto collettivo, hanno comprato dei campi, li hanno affidati ad un contadino che sì, nel giro di 3 anni li ha riconvertiti tutti ad agricoltura biologica. Mm-hmm. E hanno poi ritrovato il mugnaio e il che di fatto di macina gli fa la farina e poi come ultimo passaggio il panettiere che rifà il pane come una volta nei forni a legna con lievito di pasta madre eccetera. Tutto questo in un'economia che è assolutamente virtuosa, nel senso che il contadino non è sfruttato. Le quantità, e tutti hanno il lavoro garantito, tutti i vari attori del fasi hanno il lavoro garantito, quindi non lavorano rischiando di che poi qualcuno non glielo compra il pane, perché c'è comunque il gruppo di acquisto che ha garantito l'acquisto di delle quantità, una certa quantità. E questo è e oltretutto un terreno è stato salvato dalla cementificazione. Hanno rimettendo in piedi una vera e propria piccola filiera produttiva. Esatto. Mm-hmm. Però assolutamente virtuosa e ecologicamente compatibile e via dicendo. Bene, bene. Questo è un esempio, ma sì, ce ne sono tanti. Purtroppo secondo me non abbastanza, insomma, rimangono sempre esempi. certo. Senti, il tuo documentario che futuro avrà dopo questa partecipazione a Cinema Ambiente? Ma allora, adesso stiamo presentando ad altri festival, avrà alcune proiezioni locali in Brianza, assolutamente, ne ha già avuto diverse in Brianza e ce ne saranno delle altre, ovviamente la cosa interessa di più, però diciamo che l'obiettivo del documentario era prendere la Brianza come un caso, ma poi raccontare il consumo di suolo in generale, quindi il messaggio vuole anche essere un po' universale, diciamo. Sì. Di conseguenza se dovesse capitare di avere qualche altra proiezione in giro per l'Italia, assolutamente benvenuta, insomma. Bene. Quello che ce n'è a settembre-ottobre dovrebbe essere comunque a Milano, in una proiezione nell'ambito del Museo del Cinema di Milano, quindi se proprio qualcuno volesse cercarlo, insomma, venire a vedere. E per quanto riguarda internet, dei riferimenti? Allora, per quanto riguarda internet siamo un po' disorganizzati da questo punto di vista, non abbiamo fatto un vero e proprio sito internet, anche se dovremmo farlo, però si possono trovare informazioni sul sito della casa di produzione che è insolitecinema.it, tutto attaccato. Benissimo. Allora Andrea, grazie di questa tua nuova partecipazione e risentirci per le prossime novità. Assolutamente, speriamo. Un abbraccio, a presto. Ciao. A presto, ciao. Andrea Boretti, regista del documentario 40 passi, la verde Brianza e la città infinita. Visionari su Radio Onda Rossa, abbiamo ancora un po', forse un ultimo collegamento. E comunque, per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info, l'indirizzo email, per sms in diretta, il numero è 342-3574-357. Oh, quest'oggi quasi uno speciale su Cinema Ambiente, stavo vedendo almeno 4 i titoli che abbiamo, di cui abbiamo parlato, e in finale ne parliamo nuovamente con Giuseppe Schillaci, regista del documentario Cosmic Energy. Ci sei, Giuseppe? Sì, ciao. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Dici un po', cos'è questa Cosmic Energy? Cosmic Energy è un film documentario che racconta la storia di 3 uomini che hanno fondato una società nelle Marche e hanno cercato, insomma, di fare delle ricerche in ambito della parascienza, che sono delle conoscenze New Age, insomma, e che riguarda soprattutto l'agricoltura, la sostenibilità nell'ambiente, mettendo delle piramidi sostanzialmente, dei simboli, dei segni, un po' anche rifacendosi a conoscenze appunto arcaiche sui campi agricoli, e dicendo appunto che con questi simboli, con questi segni, con queste strutture attraevano l'energia del cosmo, la cosmic energy, sarebbe un'energia vitale, faceva crescere quindi le piante e i semi in maniera più naturale, più rigogliosa, insomma. E hanno provato a portare avanti questa società, sono stati testati anche da una società, da un ente scientifico della regione delle Marche, e quindi la storia è un po' questa di questo sogno, un po' comunque di questa utopia, se vogliamo, di metodi, diciamo, non ortodossi, di applicare all'agricoltura con conoscenze che vadano oltre l'approccio semplicemente scientifico, è il tentativo di farsi riconoscere comunque la comunità scientifica, quindi sono un po' due linguaggi diversi che tentano di trovarsi, e sì, poi sì, appunto sì. È un po' l'avventura umana di questi 3 uomini, che sono un po' dei sognatori, un po' dei idealisti, se vogliamo, che comunque provano a farsi accettare in qualche modo dalla scienza ufficiale, quindi dalla comunità, e quindi e realizzare un sogno, insomma, l'immaginazione, passare poi alla realtà, che è un po' quello che ogni cineasta, ogni artista cerca di fare, no? Portare sì. delle idee, delle visioni nel mondo reale. Giuseppe, come eri venuto a conoscenza di questa realtà? Ma questo tutto ciò è partito grazie a Paolo Palavidino, che è il producer, Eie Film a Torino. Lui ha conosciuto uno dei 3 personaggi che si chiama Mario. Con lui quindi abbiamo cominciato a sviluppare il progetto, e poi abbiamo cominciato a girare, abbiamo seguiti per un paio d'anni in tutte le loro varie avventure e controversie, finché poi insomma abbiamo finito di girare. Ci sono anche delle animazioni, c'è tutto un lavoro fatto con la musica e con le animazioni, appunto per cercare di rappresentare questo mondo invisibile. E quindi insomma il lavoro è durato parecchio, però è finito l'anno scorso. Siamo stati a Toronto nella prima mondiale, abbiamo fatto il Festival di Toronto a maggio l'anno scorso, e poi abbiamo fatto altri festival in Italia, sono una coproduzione con una TV spagnola multicanal, insomma questo è un po' l'iter. Senti, visto che insomma lo hai seguito per diverso tempo, come dicevi poc'anzi, secondo te funziona questo metodo? Ma io veramente non sono riuscito ad arrivare a una conclusione, nel senso che sono delle cose cioè il grande limite è che tutta la scienza ufficiale si basa sulla ripetibilità dell'esperimento, no? Sì. Il grande difetto di questo metodo qui è che non è mai assicurata la ripetibilità, perché ci sono così tanti fattori che entrano in gioco, per cui non si può controllare, insomma, l'ambiente in maniera sicura, diciamo, certa e ripetibile, per cui di fatto non ci sono delle certezze. Io mi piacerebbe, insomma, che funzionasse, perché così i vari pesticidi, le varie cose, insomma, non sarebbero più necessarie, si potrebbe fare tutto, insomma, soltanto con l'energia del cosmo. Poi mi piace pensare che comunque le energie esistano e che fanno parte anche della nostra spiritualità in qualche modo. Mm-hmm. Poi mi piace anche appunto ritenere il tutto una questione molto individuale, soggettiva. Senti, che area agricola interessa questo progetto? Che dimensioni questo soprattutto hanno? Soprattutto le Marche, ma anche in Piemonte hanno fatto degli esperimenti. E i campi, che dimensioni hanno? Ma campi abbastanza grandi, soprattutto di girasoli o anche hanno fatto gli esperimenti poi in laboratorio con l'insalata, insomma diverse tipi di culture, anche per vedere la risposta diversa. Sì, diciamo che ci sono stati alcuni esperimenti in cui era molto più visibile il risultato positivo, altri invece che non davano varianze significative, insomma. Mm-hmm. Senti, queste, mi dicevi, facevano riferimento a delle culture, a delle conoscenze antiche. Ecco, quali sono i punti di alcuni, se li sai? È un discorso vastissimo che va dalla cultura orientale, quindi al Feng Shui, per esempio, no? Che si basa sulla posizione, una tecnica di costruzione architettonica che si basa sulla posizione geodetica per la funzionalità degli ambienti, quindi non so, la pranzo, quella dove si dorme, deve essere orientata secondo degli assi terrestri, magnetici, eccetera. Quindi si da queste conoscenze più orientali alle conoscenze proprio più di medicina naturale, antica, quindi tutto ciò che riguarda appunto la fitoterapia o anche le conoscenze che sono dei greci o della scienza medievale, dell'alchimia, insomma è un po' un approccio, come si dice, olistico, no? Mette assieme tante cose e quindi poi andare a risalire anche a tutte le origini, insomma è abbastanza complesso, però si va appunto dalla cultura classica a quella medievale, quindi all'alchimia, a tutte le conoscenze orientali. È un approccio, diciamo, potremmo dire post new age, cioè, che mette assieme tutte, che però si basa apertura su dei saperi, insomma, per cui certo, sui saperi e molto sulla sensibilità, perché poi tutto ciò che ha a che fare con l'energia e quindi non è visibile, non è misurabile in maniera scientifica, no? Con degli strumenti tecnici, fa capo a quella che è la sensibilità di ognuno e quindi di loro, che in particolare erano dei sensitivi, no? Potremmo anche chiamarli un po' dei medium, cioè sono delle persone che sono molto sensibili a questo tipo di energia, almeno questo dicono loro. Però se pensiamo per esempio alla rabdomanzia, cioè al metodo con cui fino all'Ottocento si cercava l'acqua, di fatto utilizzava appunto la sensibilità del rabdomante, il suo campo magnetico, lui muoveva delle cioè le bacchette si muovevano rispetto al campo magnetico dell'acqua, quindi lui funzionava un po' da antenna. Sì. Sono conoscenze che in effetti ci sono sempre state, che poi magari sono state dimenticate dalla civiltà più tecnologica, scientifica, razionalista, diciamo, mentre quello è un approccio più individuale che fa capo alla sensibilità di ognuno, la sensibilità più che la sensibilità. Giuseppe, poi insomma tutta la medicina orientale, anche i massaggi, l'acupuntura, cioè sono tutte cose che si basano su campi energetici, insomma non è nulla di nuovo. Sì. Giuseppe, volevo chiederti, questi tuoi protagonisti del documentario hanno in qualche modo prodotto una documentazione fruibile? Sì, hanno fatto vari studi con appunto dei dossier. Comunque sono in contatto con altri ricercatori, diciamo così, freelance fuori dall'ortodossia scientifica, che fanno questo tipo di ricerche. C'è un sito che è quello del film, dove poi ci sono approfondimenti anche sulla loro ricerca. Il sito è cosmicenergyfilm.com, tra l'altro lì per adesso è si può vedere il film in streaming. E lì c'è un collegamento al sito loro, dove ci sono tutte le varie ricerche, i metodi, i simboli, insomma tutto quello che utilizzano, le piramidi, i vari simboli più esoterici, insomma, c'è un po' di tutto. Bene, quindi anche i riferimenti ce li hai dati. A questo punto io ti saluto, Giuseppe, a risentirci presto. Ok, ti ringrazio. Ciao a tutti. Alla prossima. Buona giornata. Ciao. Questo era Giuseppe Schillaci, regista del documentario Cosmic Energy, presentato al Festival di Cinema Ambiente a Torino. Siamo in chiusura di Visionari, giovedì 19 luglio del 2012. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre giovedì a partire dalle 14. Per tutti i riferimenti potete consultare la scaletta della trasmissione sul sito della radio www.ondarossa.info. Alla voce trasmissioni Visionari ci saranno gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani, venerdì 20 luglio. I nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per tutta la settimana, come gli altri, come del resto anche gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia. E poi link per leggere le recensioni, riascoltare la puntata precedente e tutte quelle del 2012. Buon proseguimento, a giovedì prossimo.